Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Anche oggi avremo un approfondimento dedicato all'Abruzzo e in particolar modo chiaramente alle aree terremotate, con un approfondimento, dicevo, sulle necessità del sistema produttivo abruzzese e in particolar modo chiaramente di quell'area, area tra l'altro già particolarmente depressa in quella regione, le richieste che arrivano dagli industriali. Chiaramente le priorità in questo momento sono altre, sono ancora quelle di scavo, recupero e messa in sicurezza, però poi bisognerà affrontare in maniera abbastanza rapida e urgente anche il tema di chi per via del terremoto e delle sue conseguenze anche indirette rischia o ha già perso il posto di lavoro nell'area. 349 238 6666 per i vostri sms. Per quello che riguarda le altre notizie, in breve, tra l'altro vi anticipo che avremo anche alcuni approfondimenti. Continua infatti la missione delle imprese italiane in Russia. Dicevo, per quello che riguarda i mercati, più 1,6% il MIB, più 2,2% l'S&P MIB, più 0,6% il Parigi, più 0,90% Francoforte, meno 0,4% Londra, più 0,2% l'America e più 0,8 il Nasdaq. Va detto che Milano, come avete sentito, è la borsa migliore in questo momento in tutta Europa, e il motivo si chiama Atlantia, più 7,3%, Pirelli più 5,2%, più 5% Steam Microelectronics, più 4,3% Banco Popolare, più 4,3% Enel, più 4% Prysmian e Unicredit, più 3,5% Parmalat e Fiat, più 3,3% Monte dei Paschi, più 3,2% Autogrill, più 3,1% Ansaldo STS come Intesa San Paolo e più 3% anche Campari. Il 2,8% lo guadagna la Popolare di Milano, il 2,7% la CIR e il 2,2% Telecom Italia, il 2% rialzo di Geox e Alleanza. Sul fronte opposto, Finmeccanica meno 1,3%, Buzzi Unici meno 0,7%, Bulgari meno 0,6%. Rapidamente le notizie in breve. Petrolio a $49 al barile, il colosso terzo produttore al mondo di alluminio Alcoa ha chiuso per la prima volta un trimestre in perdita, infatti 59 centesimi per azione e 20 per 4 miliardi di dollari, mentre dall'economia internazionale, mi riferisco all'America soprattutto, ma non solo, arrivano segnali contrastanti, e già questa, visto il periodo, è una bella notizia. Perché? Perché se l'ex presidente della Federal Reserve, Alan Greenspan, il quale viene anche additato da molti come uno dei responsabili, dei corresponsabili dell'eccesso di bolla di liquidità che si è generata in questi anni, che ha portato poi, avendo un denaro che costava poco, a rischiare troppo, a rischiare con prodotti tossici. Dicevo, ma Alan Greenspan ha detto che nell'economia mondiale ci sono segnali di miglioramento, anche se quella americana continuerà a scivolare ancora per un po'. Il PIL britannico invece nel primo trimestre è sceso dell'1,5%, una recessione simile a quella del 1979, quindi la peggiore che la Gran Bretagna ha conosciuto negli ultimi 30 anni e che portò poi all'era Thatcher. Dicevo, segnali in chiaroscuro, perché appunto se Greenspan vede qualche miglioramento, ma la Gran Bretagna vede un primo trimestre da recessione che non si vedeva da 30 anni, in Germania invece il crollo delle esportazioni è rallentato, cioè la flessione di febbraio è stata dello 0,7%, mentre a gennaio le esportazioni erano crollate del 7,5%. E tra l'altro il risultato è migliore delle attese degli analisti, che prevedevano un calo del 3,3%, quindi meno 0,7% delle esportazioni in Germania è un buon dato. Vedremo se poi verrà confermato anche a marzo, ma vorrebbe dire che si è confermato che la parte più virulenta, peggiore di questa recessione è alle spalle, che non vuol dire che si navighi nell'oro, ma che sicuramente si è fatto il giro di boa. Per quello che invece riguarda la Germania, e qui torniamo ai segnali in chiaroscuro, Daimler Chrysler non ha escluso il ricorso ai licenziamenti. È la prima volta che accade che Daimler non escluda i licenziamenti. In Francia, già ve l'hanno raccontato i nostri GR, c'è stato un nuovo sequestro di manager, 4 dirigenti della Scapa France nell'est del paese, e l'Ocse oggi ha fatto notare come tra l'altro in questo periodo metà della forza lavoro a livello mondiale sia senza un contratto regolare. E il presidente della Camera Gianfranco Fini, veniamo all'Italia, a proposito di lavoro ha ricordato che porre i lavoratori al centro è l'unica soluzione nei confronti della crisi. L'Europa, con le sue affermate politiche sociali e di welfare, credo che possa e debba legittimamente rivendicare un ruolo di guida nel percorso di superamento della crisi, e credo che lo debba fare ponendosi come modello di riferimento anche per le cosiddette economie emergenti. È un ruolo da rivendicare che ovviamente passa per il rilancio della strategia di Lisbona, che resta la cornice più efficace per promuovere in sede europea la crescita sostenibile e l'occupazione. Ecco, quella occupazione, o con altri termini quella centralità del lavoro, che non a caso la nostra Costituzione pone a fondamento della democrazia repubblicana, e credo che concludere queste osservazioni con riferimenti a valori antichi, ma che proprio in ragione della globalità della crisi sono agli occhi di tutti sempre più attuali, sia un modo per ricordare che proprio da quei valori e dalla centralità del lavoratore vi è forse l'unica vera soluzione, al di là delle nuove regole, per un rilancio dell'economia e per un'autentica politica di solidarietà. Così il presidente della Camera Gianfranco Fini, a conclusione del suo discorso di apertura al convegno dell'Aspen Institute, un convegno dedicato proprio alla crisi e all'Europa, si chiama infatti l'Unione Europea e la crisi, come uscire dal tunnel. Su questo Fini in precedenza aveva dato un commento un po' che ha raffreddato un po' le aspettative, ha detto attenzione, l'inversione, cioè il fatto che nel 2010 l'economia tornerà a crescere potrebbe essere un'illusione. È ovvio che sono diffuse e grandi le preoccupazioni per la crisi che stiamo vivendo, anche perché le previsioni che in rapida successione vengono aggiornate dai più autorevoli istituti di ricerca non sembrano offrire segnali particolarmente incoraggianti, a tal punto che anche la possibilità di una inversione nel prossimo anno del ciclo negativo potrebbe rivelarsi illusoria. Da più parti si è evidenziato che la congiuntura attuale si configura come la prima vera grande crisi dell'età della globalizzazione, in qualche modo paragonabile per la sua complessità e generalità a quella del 29. Ma credo che vada messo in evidenza come, al contrario di allora, l'atteggiamento assunto dai maggiori paesi coinvolti, a cominciare dagli Stati Uniti, sia stato fortemente reattivo ed interventista. A fronte degli effetti nefasti che la crisi finanziaria ha già prodotto, possiamo senz'altro considerare positive la rapidità di risposta e la determinazione con cui i governi europei, e in particolare quelli della zona euro, hanno reagito in modo sostanzialmente coordinato, dimostrando così di saper muovere i primi passi sulla strada di un auspicabile governo europeo dell'economia. Presente al convegno dell'Aspen anche il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che ha detto c'è un aspetto non drammatico di questa crisi, ossia che l'Europa, a giudizio di Tremonti, è uscita con un'immagine meno rigida, viene stata percepita dai suoi cittadini in maniera meno rigida, meno distaccata e più umana. Una valutazione un po' meno rigida e più politica che si sta rappresentando degli affari e dell'immagine, la consistenza europea è importante anche come immagine dell'Europa, la quale a volte però fa di tutto per rappresentarsi anche in modo buffo, e questo in un qualche modo nuoce un po' all'immagine. Rispetto a prima, adesso l'immagine che viene fuori dell'Europa è certamente più umana, più intelligente, meno rigida di quanto era prima, e questo fa la forza dell'Europa. Ancora un'ultima notizia e poi passiamo al tema di approfondimento che anche oggi riguarda purtroppo l'Abruzzo. La Campari è andata molto bene, sono molto bene in borsa, ne parleremo più avanti, perché ha annunciato l'acquisizione del marchio di whisky statunitense Wild Turkey, pagandolo 433 milioni di euro. Gli amanti del whisky lo conosceranno, è comunque uno dei marchi più prestigiosi di Kentucky Bourbon a livello mondiale, e vende in un anno 800.000 casse da 9 litri in oltre 60 paesi. L'Abruzzo, quindi, la cronaca l'avete sentita nei nostri GR, poi vi saranno gli speciali anche alle 18 dopo il GR, lo speciale di Radio 24, e nel corso della serata è salito a 260 il numero dei morti provocati dal terremoto in Abruzzo, 17.700 le persone attualmente accolte nelle tendopoli. Il nostro approfondimento oggi va alle imprese e al tessuto produttivo. Lo ripeto, è chiaro che in questo momento l'emergenza e le priorità riguardino i soccorsi, la messa in sicurezza, l'accoglienza degli sfollati, però a brevissimo bisognerà anche pensare a quello che ne sarà delle persone che hanno perso il posto di lavoro, sia nelle aree direttamente colpite sia nelle aree limitrofe. Secondo una prima ricognizione del Ministero dello Sviluppo Economico, le imprese dell'area attualmente ferme sono il 60%. Tra l'altro ieri il vice direttore della Confindustria dell'Aquila, Imperatore, aveva detto che le imprese non sono nelle condizioni di poter pagare gli stipendi ai lavoratori. C'è stata un'iniziativa, l'abbiamo ascoltata, Confindustria Sindacati Solidale, per cui solidale nei confronti di tutti i dipendenti delle imprese, anche iniziative dell'Union Camera, le Camere di Commercio, mentre la Confartigianato fa sapere che da una prima ricognizione delle 36.300 imprese artigiane dell'Abruzzo, di cui 7.900 in provincia dell'Aquila, numerose sembrano danneggiate e con l'attività bloccata. Oggi il ministro Sacconi ha detto che i mutui e i contributi verranno posticipati per gli abitanti dell'area terremotata, mentre il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani ha fatto sapere che complessivamente gli aiuti che potrebbero arrivare dall'Unione Europea sono pari a 500 milioni di euro. Infine la Coldiretti ha fatto sapere che i danni riguardano il 50% delle aziende. Ci sarebbe anche un allarme latte per le difficoltà nella raccolta e distribuzione del prodotto, nonché nell'approvvigionamento di fieno e mangimi per il bestiame. Il ministro Zai ha annunciato sgravi per la parte agricola pari a 40 miliardi di euro e subito il ritiro degli alimenti in giacenza. Ne parliamo con una delle inviate del Sole 24 Ore nella zona terremotata, Lina Palmerini, buonasera. E grazie anche al direttore generale della Confindustria Abruzzo, che raggruppa oltre 2.000 imprese della regione, Giuseppe D'Amico, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora Lina, tu ne hai scritto in questi giorni sul Sole 24 Ore, in realtà la cosa interessante, si fa per dire perché è drammatica, è che il terremoto ha colpito un'area, se ho ben capito, economicamente già depressa. Poi vorrei invece anche quella che è stata la tua ricognizione in questi giorni dei danni per quello che hai potuto vedere. Lina. Sì, hai detto bene, era questa un'area, diciamo, quella più problematica in Abruzzo, un'area dove il declino industriale era già presente da diversi anni, diciamo dall'inizio degli anni 2000. Questo prima industrialmente era un polo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, poi man mano hanno iniziato a chiudere delle aziende che erano appunto un po', erano dei pianeti per questo territorio, si era sviluppato tutto un indotto, parlo dell'Italtel per esempio, della Siemens, e tutto questo ha causato nell'arco di pochi anni la perdita di 3.000 posti di lavoro. e anche adesso, appunto, nei giorni del terremoto, a carico dell'INPS, in termini di assegni di disoccupazione e cassa integrazione, c'erano 3.500 lavoratori, quindi in qualche modo il terremoto ha aggiunto tragedia a una situazione già problematica. L'area dell'Aquilano, per esempio, è quella che in termini percentuali soffre di più in termini di occupazione, il 24% di occupati è qui contro il 36% del Teramano, del Chietino. E per quello che poi, questo diciamo è il quadro pre-terremoto, che era già un quadro difficile, come tu ricordavi, chiusura di impianti, cassa integrazione, 3.500 persone. Per quello che tu hai potuto vedere, è chiaro che in questo momento nessuno ha i dati aggregati corretti, non li ha nemmeno il Ministero. Il danno può essere circoscritto all'area terremotata o, diciamo, ne risente per via dell'indotto anche un'area ben più allargata? In questo momento anche le forze sociali, i diretti protagonisti, non sono in grado di dirlo. Quello che si sa è che per il momento riguarda direttamente quest'area. Comunque i calcoli si faranno bene in questi giorni. Comunque ci sono ancora delle realtà sane in questa zona, c'è per esempio un'azienda, una multinazionale americana, la Micron, che è una realtà molto, molto forte, molto presente in questo territorio, c'è la Dompé, cioè ci sono anche realtà industriali molto forti, sane, che è passata l'emergenza possono, diciamo, essere un fulcro per il traino, per la ricostruzione. Certo. Grazie Lina Palmerini, ti lasciamo perché appunto sei in questo momento impegnata anche nelle aree terremotate. Direttore D'Amico, dopo la pubblicità e il meteo vorrei capire intanto se condivide l'analisi della collega Palmerini, ma anche che cosa voi chiedete, nel senso che le iniziative emergenziali sono state immediate, Confindustria, sindacati, ma anche i ministeri, però adesso con calma, superata la fase, diciamo, di emergenza pura, bisognerà anche iniziare a capire che richieste, che sgravi, che aiuti chiedere al territorio, perché voglio dire, già essere senza casa è un disastro, una tragedia, essere senza casa, senza lavoro è una tragedia nella tragedia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, direttore generale della Confindustria abruzzese Giuseppe D'Amico, ha sentito la nostra collega Lina Palmerini e vorrei capire che cosa andrete a chiedere, o perlomeno quali siano le vostre priorità post, diciamo, emergenza stretta che è quella di questi giorni. Ma guarda, sicuramente ci sono dei problemi da affrontare subito per il sistema economico che in questo momento è in ginocchio. La dottoressa Palmerini, con la quale tra l'altro avevo parlato proprio all'indomani del sisma, ha tracciato un quadro pre-terremoto abbastanza esatto. La provincia aveva già dei grossi problemi, il comprensorio aquilano in particolare. Adesso si tratta di sostenere imprese che non possono riprendere la produzione, non possono lavorare, e quindi si tratta anche di sostenere gli occupati, i lavoratori che erano occupati in queste imprese. Quindi un primo intervento da fare immediatamente è quello di estendere la cassa integrazione in deroga con una liberalizzata, cioè procedendo poi alla formalizzazione delle procedure formali di ricorso a cassa integrazione un momento successivo, quindi dare subito, come dire, un sostegno ai lavoratori delle imprese che adesso per evidenti motivi non possono lavorare. Seconda cosa, prevedere chiaramente una sospensione dei mutui, cosa che in altri settori già è stato previsto, dei mutui e di tutte le tasse, contributi, quindi IRAP, ICE a favore di imprese. Terza cosa, su cui stiamo già attivandoci con il Ministero dell'Industria, abbiamo parlato ieri con il direttore generale Bianchi del Ministero delle Attività Produttive, costituire subito una task force che proceda alla rilevazione dei danni, quindi della messa in sicurezza dei danni delle imprese per ripartire, quindi per vedere di rimetterle in sicurezza, prevedere i tempi di ripartenza e cercare quindi di ridare vita all'economia industriale delle aree terremotate. Questo riteniamo un fatto tra l'altro importantissimo, perché c'è come dire, riprendere a lavorare, riprendere le attività e anche una spinta morale, insomma, una spinta a un territorio che in questo momento è veramente piegato e martoriato, perché lei sa benissimo che qui le scosse continuano. Tra l'altro chi le parla vive in Abruzzo, ha perso anche casa, insomma, quindi è particolarmente sensibile a queste tematiche. Lo posso immaginare, ci mancherebbe. Direttore generale, mi scusi, per capire poi quale lista portare anche al governo, chiaramente, perché bisognerà fare in modo che le persone abbiano un lavoro il prima possibile e comunque non uniscano, come si diceva prima, il dramma della perdita dell'abitazione al dramma ulteriore della perdita del lavoro. Voi che cosa immaginate? Un insieme di incentivi o perlomeno sgravi fiscali? Già l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere per quello che riguarda i pagamenti, già abbiamo visto alcune iniziative, ma in maniera più organica che cosa chiederete a Roma? Allora, noi stiamo cercando di mettere a punto adesso, io torno da Confindustria Nazionale dove abbiamo parlato con il mio presidente Marrollo, che è vicino a me tra l'altro, abbiamo parlato con i vertici di Confindustria, dalla presidente Marcegaglia alla vicepresidente per il Mezzogiorno Cristina Coppola, proprio per avviare tutta una serie di iniziative, più o meno di emergenza ma poi anche organiche. In effetti fra le richieste che noi abbiamo discusso e portato lì in Confindustria c'è proprio quella di un provvedimento organico che mette insieme un insieme di iniziative che vanno dagli sgravi contributivi, dagli sgravi dalla sospensione dei mutui e dei contributi e imposte, come ho detto prima, a carico delle imprese nei territori terremotati, dalla cassa integrazione in deroga a contributi per le imprese, per la ripresa delle attività e a corrispondere dei danni subiti, insomma, quindi fatta una verifica dei danni subiti dalle singole imprese, quindi chiaramente dare loro un sostegno economico sia per riparare questi danni, ma sia anche in relazione alle attività e danni avuti dal mancato funzionamento in questi giorni, insomma, giorni, speriamo che non diventino mesi, insomma. Quindi poi saranno mettere a punto tutta una serie di iniziative più organiche, però al momento sono in fase di studio e anche proprio di preparazione. Voi avete stimato, mi rendo conto che sia molto difficile, un primo valore dei danni per quello che riguarda il mondo delle imprese? Guardi, è difficile, per questo parlavamo prima con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il direttore Bianchi, di mettere in piedi una task force diretta proprio a cercare di misurare questo. Io le posso dire che sale al momento, dalla nostra primissima valutazione, salvo casi eccezionali, il sistema economico industriale delle aree terremotate, quindi parlo proprio del comprensorio qui Aquilano, è fermo, tutto fermo. I motivi sono non li riconducerei, non condurrei nemmeno ai danni materiali che evidentemente poi ci sono e andranno valutati, ma anche a una condizione oggettiva, psicologica della gente, cioè le scosse continuano, quindi noi siamo ancora in piena emergenza, quindi valutare i danni è ancora più difficile. Vorrei sottolineare come accanto a questi provvedimenti, diciamo, più strutturali, in parte li ho elencati, altri li metteremo a punto, noi ci siamo mossi come Confindustria Abruzzo, come Confindustria Nazionale, con un accordo di cui già è stato riportato notizia, con i sindacati, come devolvendo un'ora di lavoro dei lavoratori a cui l'imprenditore metterà altrettanto, questo è già stato sperimentato in altre circostanze drammatiche. Per altre circostanze drammatiche noi abbiamo aperto un conto corrente che poi, dove imprese, associazioni di categoria, le nostre consorelle potranno versare un fondo per interventi mirati che andremo a individuare anche sulla base poi dei fondi raccolti, e poi una serie di iniziative volte anche a ricreare un contatto con le imprese, perché tenga presente che Confindustria L'Aquila e Confindustria Abruzzo in questo momento sono inagibili, avendo anche loro subito dei gravi danni strutturali. Quindi si tratta adesso abbiamo pensato proprio di ricreare con un container, con quei tende pallone, insomma, uno sportello che vorremmo ubicare nelle prossimità del centro operativo, certo, della Guardia di Finanza lì all'Aquila. e dovremo discutere con la regione, con la Presidenza. Quindi un punto di informazioni molto strutturato per ricevere anche le segnalazioni, poi iniziare a fare un monitoraggio della situazione un po' più dettagliato, se ho capito bene. Da ricreare un contatto, perché adesso non è agibile la sede, come le sa, quindi c'è un problema proprio di comunicazione. Quindi ecco, la domanda che mi faceva lei della valutazione al momento è ancora più prima fate portire, diciamo, partire la tenda, non saprei come altro chiamarla, insomma, che fungerà, che sostituirà il luogo fisico appunto inagibile della Confindustria, e quindi per avere anche iniziare a monitorare in maniera dettagliata il danno, la tipologia del danno e la sua estensione anche nel tempo. Io ringrazio il direttore generale e veramente in bocca al lupo a lei e a tutti gli abitanti dell'area, Giuseppe D'Amico, direttore generale della Confindustria abruzzese. Dalla situazione abruzzese passiamo per forza di cose ai mercati finanziari, come sempre un appuntamento fisso di questo programma, e quindi alla chiusura delle borse. Giornata positiva, almeno in borsa, più 2,3% l'S&P MIB, più 1,8% MIBTEL, più 0,6% Parigi, più 0,8% Francoforte, invariata Londra, mezzo punto percentuale Dow Jones e l'1,4% il Nasdaq di rialzo. Milano la migliore d'Europa, Atlantia più 8%, Pirelli più 5,60%, Prismian più 5%, Steam Microelectronics più 4,6%, come Enel, il 4,4% guadagna Banco Popolare, il 4,3% Fiat, il 3,8% Unicredito, il 3,7% Parmalat, il 3,3% Monte dei Paschi, il 2,80% rialzo di Intesa e Ansaldo, il 2,7% Popolare di Milano e Autogrill di rialzo, il 2,6% Geox, il 2,5% Telecom Italia, il 2,5% anche il rialzo di Mediolanum, il 2% quello di Alleanza, Impregilo e CIR, bene la Campari più 1,90% dopo l'annuncio dell'acquisizione di Wild Turkey, noto marchio soprattutto per gli amanti dei whisky di prestigio, ma il valore dell'operazione è di 433 milioni di euro, quindi uno dei più famosi whisky del Kentucky. Parlerà Campari. Allora, Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, al di là della Campari, come mai un rialzo così forte per Atlantia, Pirelli, Prismian e Steam Microelectronics? Beh, Atlantia è stata la protagonista della seduta fin dal mattino, anche quando i listini erano in rosso questa mattina il titolo Atlantia guadagnava terreno, e secondo quanto riferito dagli operatori a riaccendere i riflettori sulla società sono le ipotesi di un riassetto dell'azionariato con la prospettiva di creare un nuovo patto parasociale. La novità è emersa dalla relazione illustrativa del CDA in vista dell'assemblea che si terrà a fine aprile, e la prospettiva appunto è quella che gli azionisti importanti di Atlantia, oltre a Sintonia, possano riunirsi in un nuovo patto parasociale dopo la scissione di Schema 28 avvenuta lo scorso anno. Tra i possibili candidati all'ingresso nell'azionariato stabile di Atlantia c'è anche il fondo Abar Investments di Abu Dhabi, ma comunque la voce, la possibilità quindi di un nuovo riassetto nell'azionariato e una nuova struttura azionaria oggi ha riportato l'attenzione sul titolo, che è salito di quasi l'8%. Per quanto riguarda Pirelli invece ricordiamo che ormai il titolo è in rialzo dalla fine di marzo, quasi consecutivamente ha raggiunto un guadagno complessivo di circa il 40% dal 30 marzo scorso. Il titolo ha beneficiato dei primi segnali positivi del comparto auto, a cui naturalmente è direttamente legato, e che in marzo il comparto auto ha iniziato a registrare un aumento delle immatricolazioni anno su anno per la prima volta dopo mesi di flessioni, e quindi il titolo guadagna. In più ieri è stata arrivata anche una promozione da parte di una casa d'affari, che è Intermonte, che ha alzato la raccomandazione sul titolo, e per tutti questi motivi sta continuando a guadagnare terreno. Per quanto riguarda infine Prismian, che è la terza di oggi sull'S&P MIB, che ha guadagnato oltre il 5%, e nell'asta di apertura questa mattina c'erano stati moltissimi ordini di vendita che avevano spinto in avvio il titolo in rosso, e da quel momento in poi è tornata a salire con anche forti volumi, quindi l'impressione degli operatori è che ci possa essere stato qualche cambiamento nell'azionariato per quanto riguarda gli investitori istituzionali, quindi con qualcuno che ha realizzato in avvio e poi altri fondi che possono aver preso posizione sul titolo. Questo per quello che riguarda i titoli in questione. Finmeccanica oggi sembra risentire, ieri per nulla, dello stop all'elicottero presenziale. È un po' strana la reazione del mercato. Ieri Finmeccanica ha guadagnato, oggi meno 0,7. Siamo sicuri che sia per lo stop arrivato all'elicottero del presidente americano? Beh, questo è l'unico elemento particolare che è stato segnalato dagli operatori, non c'è nessun altro motivo da segnalare, tra l'altro che oggi c'è stato anche gli interventi del presidente Guarguaglini sulla stampa, che ha specificato, che ha definito i contorni di questa vicenda, dicendo che non è in discussione il contratto già in essere da 3,7 miliardi, mentre i dubbi sono semmai sull'allargamento di un contratto per la realizzazione di altri 18 elicotteri. Comunque il titolo oggi in effetti è stato uno dei pochi deboli, ha chiuso a meno 0,7%, e l'unica ragione che viene segnalata è proprio questa, che riguarda le incertezze su questa vicenda, e evidentemente c'entra anche la speculazione dopo l'avvio di ieri probabilmente. Ancora per quello che riguarda i titoli, abbiamo visto andare bene anche Fiat, più 4,3%. Di nuovo in diretta, chiudiamo la pagina sui mercati, Paolo Paronetto, con due titoli: Telecom oggi in assemblea e Unipol, dove qualche perplessità l'hanno espressa i revisori del bilancio. Certo, per quanto riguarda Telecom, come ricordavi tu, oggi è stata la giornata dell'assemblea, il titolo a Piazza Affari ha guadagnato il 2,48%, chiudendo a 1,03 euro. Tra le notizie uscite dall'assemblea di oggi, il presidente della Terre di Genova ha ribadito ancora una volta che non è previsto nessun aumento di capitale della società, e ha inoltre definito costruttivo e trasparente il rapporto con Telefonica. Per quanto riguarda invece alcuni dei dossier caldi del gruppo di TLC, soprattutto la vicenda in Argentina dopo il congelamento da parte dell'antitrust argentino dei diritti di voto dei consiglieri Telecom nella controllata Telecom Argentina, l'amministratore delegato Bernabé ha ammesso che la situazione in Argentina è complessa, ma ha ribadito che la società continuerà a difendere i propri diritti in tutte le sedi opportune. Sì, quello è uno scontro, un braccio di ferro abbastanza pesante tra Telecom e governo argentino. E invece per quello che riguarda Unipol, che alla fine ha comunque chiuso in territorio positivo a più 1,19, anche se in avvio era in rosso, e gli revisori di KPMG hanno certificato il bilancio sottolineando tuttavia che la politica di impairment adottata dal gruppo non è conforme ad alcuni paragrafi dei codici IAS, e questa deviazione potrebbe aver avuto effetti positivi sul risultato consolidato, che quindi in realtà potrebbe essere inferiore se fosse stato impiegati i criteri corretti. Grazie a Paolo Paronetto. Adesso ci trasferiamo in Russia, dove continua la missione italiana di oltre 800 imprese. Hanno lasciato Mosca una parte della missione, oggi infatti si è trasferita a Ekaterinburg negli Urali, dove diciamo c'è un'importante sede soprattutto anche di manifattura pesante. E allora parliamo di Russia. Si è divisa in due infatti, dicevo, la missione. Un'altra parte, ossia 160 aziende, 6 banche, sono assieme al sottosegretario allo sviluppo economico Adolfo Urso, è andata a San Pietroburgo per siglare accordi commerciali con le imprese russe. La nostra Valentina Fornetto invece appunto è Ekaterinburg. Valentina, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Sebastiano, come dicevi, siamo a Ekaterinburg, ultimo giorno di lavori per la missione di Confindustria, ICE e Governo. Clima inclemente per quanto riguarda la meteorologia, però cordiale per quanto riguarda gli affari, una regione dove si trovano le principali università scientifiche, i poli di ricerca, come dicevi anche una città dove c'è molto interesse per l'industria metallurgica, e una zona in espansione dove l'Enel ci ha fatto visitare oggi una sua centrale elettrica che ora ha deciso di potenziare. La Russia per l'Enel vale 6 miliardi di euro fra investimenti e acquisizioni. Questa centrale è stata acquisita dal Cremlino nel 2018 2008. Allora sentiamo l'amministratore delegato Fulvio Conti. La Russia è un mercato in grandissima crescita, nonostante la crisi finanziaria. La Russia è un mercato grande, di 150 milioni di consumatori, ha grandi dotazioni di materie prime ed è in fase di spinta liberalizzazione, per cui è un'opportunità per noi stupenda che abbiamo potuto cogliere attraverso diversi strumenti. Da San Pietroburgo siamo passati ad avere una società di trading dell'energia, siamo il venditore di energia indipendente più grande in Russia insieme a un nostro socio. Abbiamo anche la possibilità di avvalerci di materia prima come il gas della società Seven Energia che stiamo sviluppando insieme ai nostri colleghi dell'ENI. Tutto questo può avere un risvolto positivo anche per i consumatori italiani, per l'Italia? Nell'immediato l'impatto è molto modesto evidentemente, ma le conoscenze che noi stiamo portando a casa attraverso gli investimenti che facciamo in Russia, oltre alla possibilità di integrarci nelle materie prime, potranno ridurre i costi anche in Italia con il trasferimento di tecnologie e con la capacità di fare ulteriori investimenti in Italia, a cui stiamo mettendo mano e a cui vogliamo evidentemente appellarci per poterli fare più speditamente. Ci diceva che ci sono delle rassicurazioni per quanto riguarda la creazione di centrali nucleari in Italia, territorio sismico per eccellenza. In tanti paesi nucleari si ha lo stesso problema che purtroppo si ha in Italia, sono zone sismiche. Le tecniche di costruzione moderne sono tali da garantire l'assoluta tenuta anche agli eventi più catastrofici, tant'è vero che in 50 anni di terremoti in Giappone non c'è mai stato nessun problema. Conti ha anche ipotizzato l'apertura del cantiere per la prima centrale nucleare in Italia nel 2011, ha detto iter parlamentare permettendo ovviamente. A Ekaterinburg c'era anche il ministro per lo sviluppo economico Claudio Scajola, lo abbiamo sentito. Visitando prima un grande stabilimento industriale ho sentito come prima richiesta quella che la collaborazione per il settore metallurgico più ambito è quello di avere la tecnologia che portano le nostre imprese italiane che dovrebbero insieme a loro riuscire ad impegnarsi anche nell'industria pesante. Allora, per chi come me, che poi non è un Matusalemme perché mi considero ancora abbastanza giovane, pensare che la Russia sull'industria pesante chieda la collaborazione dell'industria italiana sul piano tecnologico e della qualità, credo sia un motivo di onore che ci fa dire che ci buttiamo troppo giù perché siamo più bravi di quello che noi diciamo di essere. Secondo il Ministro, questa è la terza fase del nostro rapporto economico con la Russia. La prima era quando eravamo soltanto praticamente un cliente per il gas russo, la seconda quella delle grandi collaborazioni con partner come Eni, Enel, Gazprom o quant'altro, e la terza è quella di adesso, delle collaborazioni tecnologiche ma anche delle piccole e medie imprese. Sentiamo ancora il Ministro. La nostra abitudine è stata quella di avere una fase di acquisto di gas per portarlo nel nostro paese, che si è trasformata nel tempo in una collaborazione industriale che ha portato ad entrare nel mercato russo alle aziende italiane, penso a Eni, quindi all'Enel, anche nella distribuzione, da ultimo anche nel mercato del gas con l'estrazione del gas per la produzione di energia sul territorio. Ecco, mi pare che si possa dire che il colosso Enel, buon ambasciatore in Russia, ha trainato il sistema Italia con la possibilità oggi di entrare nella terza fase dove ci presentiamo con la piccola e media impresa, dove ci presentiamo con operazioni di collaborazione sul piano tecnologico e sul piano dell'innovazione. Cogliamo la necessità di essere collaborativi con chi ci vuole bene, ci apre le porte, vuol fare affari insieme a noi. Così appunto il ministro Scajola, grazie alla nostra Valentina Furlanetto, appunto in collegamento con noi da Ekaterinburg. Come ricordavamo, alcuni di voi ce lo chiedono, questa missione, appunto avendo 800 imprenditori, si è poi divisa dopo la parte iniziale a Mosca in altri filoni, una parte a San Pietroburgo, poi andranno anche nel sud, nell'area più importante per quello che riguarda l'industria agroalimentare russa, e in Siberia un'altra parte, quella appunto che ha seguito Valentina Furlanetto, si è recata a Ekaterinburg, centro per la ricerca, per l'energia e anche per la manifattura pesante, la meccanica industriale come la chiamiamo da noi. Grazie Valentina Furlanetto, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.